La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 134. La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione. Con l'articolo 134 inizia l'ultimo titolo della Costituzione, il titolo sesto della parte seconda, che reca una rubrica emblematica, garanzie costituzionali, perché il Costituente ha voluto creare delle garanzie giuridiche a tutela della Costituzione. Per capirlo bisogna ricordare che le Costituzioni ottocentesche erano Costituzioni che avevano soltanto una forza politica, cioè traevano la loro autorevolezza dal fatto di essere state emanate dal re e o approvate dai cittadini. Tuttavia, i fatti della storia hanno profondamente travolto queste costituzioni, modificandole con leggi ordinarie e comportamenti. Quindi, le costituzioni ottocentesche non hanno retto alla prova della forza giuridica. Questo è accaduto non solo in Italia, ma anche negli altri paesi europei. Ecco allora che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti i paesi europei si sono posti il problema di creare garanzie giuridiche per la Costituzione. Garanzie giuridiche nel senso di creare meccanismi che potessero tutelare la primarietà, la forza superiore della Costituzione. Queste garanzie per il nostro Costituente sono la Corte Costituzionale e il procedimento di revisione costituzionale. La Corte Costituzionale, che è il giudice che deve garantire che tutto sia conforme alla Costituzione. Il procedimento di revisione, che invece è disciplinato negli articoli 138 e 139, prevede che la Costituzione possa essere modificata soltanto con un procedimento speciale e più aggravato. L'articolo 134 in particolare riguarda le competenze della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha essenzialmente due grandi ambiti di competenza. Il primo è quello del giudizio sulle leggi, cioè ogni legge ordinaria deve rispettare la Costituzione. Per rispettare la Costituzione esiste un giudice particolare, che è la Corte Costituzionale, al quale vanno rinviate e rimesse tutte le questioni che sorgono davanti ai giudici. Quindi, se nel corso di un qualsiasi processo il giudice dubita che la legge che punisce il furto sia conforme alla Costituzione, interromperà, sospenderà il suo processo e lo rinvierà alla Corte Costituzionale. In questo modo la Corte Costituzionale potrà verificare se la legge sul furto è conforme con la Costituzione. Questa ovviamente è una garanzia importantissima perché ogni legge deve rispettare la Costituzione e in caso di dubbi abbiamo un giudice che lo può controllare. Il secondo grande ambito di competenza della Corte Costituzionale è quello di giudicare i conflitti fra gli enti della Repubblica. In particolare giudica dei conflitti fra Stato e Regioni e dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato. I conflitti fra Stato e Regione sono essenzialmente conflitti legislativi, cioè si tratta di stabilire le competenze legislative se spettano allo Stato o alla Regione. Sappiamo che l'articolo 117 contiene il lungo elenco delle materie di competenza dello Stato e delle Regioni, ma questo elenco di competenze non riguarda mai i singoli oggetti concreti, quindi nell'applicazione sorgono contenziosi. Facciamo un esempio qualunque, per esempio la nozione di pane fresco. Chi deve stabilire quando il pane è fresco? Lo deve stabilire lo Stato o la Regione? Ovviamente, se noi andiamo a leggere l'articolo 117, non troveremo mai che il pane è competenza dello Stato o piuttosto della Regione. Ma troveremo, ad esempio, che la produzione di beni è competenza dello Stato, la commercializzazione dei beni è competenza della Regione. Ecco allora che sia lo Stato sia la Regione rivendicano una propria competenza sul pane, perché lo Stato dice: devo essere io che disciplinando la produzione dei beni, devo stabilire quando il pane è fresco. La regione, invece, dal suo canto dirà: «Eh no, la commercializzazione del pane riguarda la freschezza e quindi devo essere io a stabilirlo». In questi casi, ovviamente l'esempio è un caso reale, la questione finisce alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale è il giudice che deve interpretare la corretta applicazione della Costituzione. Infine, la Corte Costituzionale giudica i conflitti fra poteri dello Stato, cioè se gli organi di vertice dello Stato hanno un contenzioso, non andranno al tribunale ordinario, ma serve un giudice speciale che abbia le competenze di deciderla. Ad esempio, casi abbastanza famosi, la sfiducia al ministro Mancuso, oppure le intercettazioni telefoniche al Quirinale, fanno sorgere un contenzioso fra il ministro e il governo, fra una procura della Repubblica e il Quirinale. Questi casi vanno decisi dalla Corte Costituzionale. Ancora, la Corte Costituzionale è competente sul referendum abrogativo, il referendum abrogativo delle leggi previsto dall'articolo 75. Infatti, il controllo di ammissibilità preventivo spetta alla Corte. Quindi, la Corte Costituzionale si configura già nell'articolo 134 come un potere di bilanciamento e garanzia, che completa l'architrave costituzionale della divisione dei poteri, perché noi sappiamo che tradizionalmente esistono i tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Ma per rendere più maturo e compiuto il sistema costituzionale sono stati aggiunti il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, che ciascuno dal suo canto sono organi di controllo e garanzia.